Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. ...2,50 da a giocare più 10 per Milano. 50 secondi, Milano vicinissima a conquistare questa gara 1. Quasi fatta, ma non è ancora fatta, anche perché il Maccabi costruisce un tiro velocissimo. Un gran lavoro di David Blatt, che ha preparato una rimessa perfetta. E adesso è 4, solo di 4 punti il vantaggio milanese. Ciclismo, alzi le mani dal manubrio troppo presto, però io ci vedo più meriti del Maccabi, anche un po' di casualità. Non può commettere fallo Milano. Rice si butta dentro, la penetrazione, si appoggia al tabellone. Rice col fallo subito di Gerrans, parità e tiro libero per Tyrese Rice. 4 secondi, 3 contro Ikman, il tiro, il fallo, e il canestro che non arriva, ma a 7 decimi dalla fine arriva un fischio che può salvare Milano. E segna il primo, il pareggio c'è per Milano, 87 pari. Secondo tiro libero per Keith Lanford, che sbaglia il rimbalzo di Ingles e si va al supplementare. Overtime al Forum. Allora, oggi modifico il concorso, quello della maglietta. Lo cambio tutto. Oggi, allora, la maglietta di tutti i convocati andrà a chi mi ricorda il più strano suicidio sportivo. È chiaro che Franco Piantanelli, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia, anche a loro sarà venuto in mente quella notte di Istanbul, no? Sì, ragazzi, quella notte di Istanbul, serie dei suicidi sportivi perfetti. Ieri sera al Forum di Milano, quarti di finale di Eurolega, gara 1, c'è tempo per recuperare in questo caso, in quel caso non ce n'era perché era la finale di Coppa dei Campioni, Liverpool-Milan. Sapete com'è finita. Anche ieri sera c'era quella sensazione, no? Milano più 10 a 1 minuto 55 dalla fine, totale controllo, stacca la spina, pensa magari non allo champagne ma a due birrette nello spogliatoio prima di gara 2, eccetera. Invece no, invece cambia tutto, si va Milano addirittura, dopo la rimonta furiosa del Maccabi, ha la possibilità di vincere questa partita, 10 volte vinte, una volta e una volta persa, va in lunetta con il suo miglior giocatore Lanford a 7 decimi secondo dalla fine, 1 su 2 vuol dire supplementare, e a quel punto chi segue un po' lo sport, non solo la pallacanestro, sapeva perfettamente che quel supplementare non avrebbe avuto storie esattamente come i rigori di Istanbul, cioè non c'era una chance. Io sono certo che tutto questo è passato per la mente, poi non abbiamo la controprova e non ce l'ha detto, tutto questo è passato per la mente anche di Adriano Galliani, che era lì in tribuna con la sua faccia un po' così. Vabbè, allora la maglietta di oggi la voglio regalare a chi mi ricorda qualche altro suicidio sportivo perfetto come quello di ieri sera. 800240024 è il numero verde, siamo qui come ogni giorno fino alle 16 perché duriamo due ore. Messaggi 349-238-6666, però questi per la maglietta non valgono. Poi ovviamente parliamo di calcio, voglio parlare anche nella seconda ora anche un po' di ciclismo in questa primavera che è molto grigia per il cycling italiano. Insomma, tutti questi argomenti per voi oggi a tutti convocati. Ma poi, ragazzi, ma Conte che cosa fa? Cosa fa secondo voi? Va via dalla Juventus? Ancora, perché secondo me questo è il caso del giorno. Ancora un anno di contratto, rinnovato l'anno scorso con una cifra passata dai 3 ai 5 milioni di euro. Adesso al momento si dice: va bene Antonio, fermiamo sto contratto. E lui: ma aspetta un attimo, vediamo come va. E allora Marotta poi dice: ci troviamo quando abbiamo messo in cassaforte altro oro, quando i successi saranno stati, saranno diventati reali ed ufficiali, lo scudetto è lì solo da cucire, la Europa League è da prendere ancora. Insomma, mi sembra una situazione un po' spinosa, voi che ne dite? E dovesse andare via Conte, che comunque ha ancora un anno di contratto, chi verrebbe alla Juventus? Oggi si fanno un sacco di nomi sui giornali, sono i soliti noti. Ma a voi chi vedreste al posto di Conte in caso di addio? E voi chi vedreste al posto di Seedorf in caso, ma questo non è un caso, al momento di un addio ormai sicuro? 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati, ce l'avrete scritto anche sulla maglietta tra poco, molti di voi ce l'avranno, regaliamo una al giorno, bellissima tra l'altro, grigia chiara con la scritta "sono stato convocato" in verde, bellissimo, potete vederla sul sito www.radio24.it. Io ne ho già 4, anzi 5, una per giorno di trasmissione, tutte uguali naturalmente. Ebbene, oggi mi gira così e quindi la regalo a chi mi ricorda qualche ipotesi, qualche caso, perché sono storie appassionanti da morire, di suicidio sportivo perfetto, come è stato quello dell'Olimpia di ieri sera a Milano, come è stato quello ben più famoso e ben più sportivamente cruento del Milan ad Istanbul. Vi ricordo anche l'altra parte del concorso, cosa dite? Poi così poi almeno questa l'ho fatta, non me la fate fare più, eh? Allora intanto vi invito ad andare sul nostro sito, lì trovate tutto, perché cioè assegniamo una maglietta ogni giorno al migliore in campo che decidiamo noi, mentre oggi è l'ultimo giorno per la seconda parte della nostra idea, e cioè quella di commentatori per un giorno, perché vi vogliamo qui a Radio 24 a commentare insieme a noi davanti a un microfono i fatti sportivi, però non è gratis, perché ci dovete inviare un commento postandolo sulla parte apposita del nostro sito, un file mp3 della durata non superiore a 60 secondi. L'argomento della settimana è quello ormai un po' bollito, ma se volete ne riparliamo, della pazza domenica di Marassi, Cardi, Vandanara, che ormai si è ritirata da Twitter, quindi siamo tutti abbastanza depressi, abbastanza in lacrime. Vabbè, comunque il fatto è questo, riassumete tutto, fate un commento vocale mettendolo sul nostro sito e poi decidiamo noi e vediamo che succede, perché a quel punto insomma vedremo chi merita la maglietta con autografo e la convocazione qui nei studi di Radio 24 per parlare di sport insieme a noi. Va bene, ho detto tutto, sono stato bravo Franco Piantanida, va bene così? Posso non ripeterlo più? Va bene, perfetto. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, Formula 1. Formula 1. Però mi devi aiutare con i particolari. Se ci riesco. Tempo incerto. Tempo incerto. Tutto, sì. Schieramento pronto per la partenza. Sì. Tutti con le slick, tranne le due Ferrari con le gomme da bagnato. Sì. Te lo ricordi? Che poi non è piovuto. E vabbè, ma è lì il suicidio del direttore tecnico. Paolino è vago. Non, secondo me ce ne sono stati vari di questi casi, di queste situazioni. Quello è stato clamoroso. Pare che lottassero ancora per il mondiale. C'era Alonso già alla Ferrari, non tanti anni fa. Non farmi chiamare Leo Turrini, memoria storica. Io proprio qua è stata proprio clamorosa. Sì. 22 macchine con le gomme slick, le due Ferrari, sì, gomme da bagnato, sperando nella pioggia. Solo questo. Altro non mi viene in mente. A me piace la Formula 1, guardo, fino all'anno scorso la guardavo, quest'anno. Sì. No, ma anche in Formula 1, insomma, ne abbiamo visti diversi sui sportivi perfetti. Io ricordo varie stagioni in cui c'erano problemi di benzina, sto parlando degli anni 80, con piloti in testa alla corsa che si fermavano perché avevano finito la benzina, insomma situazioni di quel tipo me ne ricordo tante. Su questo dettaglio delle gomme da bagnato invece che delle slick, di questo errore di valutazione, questa sinceramente mi manca, ma giuro che mi aggiorno, mi informo. per la maglietta vogliamo il racconto perfetto però del suicidio sportivo, non un racconto vago, suicidio sportivo perfetto, dettagliato, come questo di Luca da Genova. Inter-Sampdoria 0-2, segnato da Tonetto al minuto 87, poi Vieri. Martins Recoba 3-2, era il 2006, mi ha pure inquadrato Sky, attapiratissimo. Marco Bellinazzo da Sole 24 Ore, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Suicidio sportivo perfetto secondo te? Quale ti ricordi? Scommetto uno relativo al Napoli. Beh, mi ricordo, sì, un primo maggio, un incontro al San Paolo, Napoli-Milan, col Milan che spugna il San Paolo, mi sembra 3-2. Vabbè, ho capito, ma quello lì non fu suicidio, fu bravo il Milan, fu un killer perfetto delle speranze del Napoli, dai. Sì, però sai, c'erano bei punti di vantaggio, sì. Poi ci fu un calo, insomma, clamoroso del Napoli, sì. Oppure altre chiacchiere, si parlò, insomma, di condizionamenti esterni, di un sacco di cose, fin troppe. E peraltro quella vittoria del Milan in quel campionato, il Milan di Sacchi, poi aprì il ciclo vincente, perché poi l'anno dopo il Milan vinse la prima Champions, insomma, e cominciò la cavalcata. Ah, me lo ricordo perfettamente. Degli olandesi. Quella gara venne introdotta dalla famosa frase di Maradona: non voglio vedere neanche una bandiera rossonera allo stadio. Esattamente, solo che le bandiere, diciamo, rossonere volavano in campo, erano magliette dei giocatori molto più veloci dei napoletani, che sembravano sulle gambe. Il coro dei tifosi del Milan fu: guardale bandiere, Maradona, sono rossonere, te lo ricordi? Peraltro, insomma, segno anche di tempi diversi, no? Anche di grande civiltà, ci fu poi un applauso alla, certo, alla partita del pubblico napoletano, no, che riconobbe, insomma, la superiorità del Milan in quell'occasione. Comunque quella fu una grande partita, ma vabbè, il 5 maggio è fin troppo facile per gli interisti. Il 5 maggio, il suicidio perfetto del 5 maggio è fin troppo facile, c'è stato anche quello della più recente, della Roma di Ranieri contro la Sampdoria, Roma-Lecce 2-3, insomma la storia è ricca di suicidi sportivi perfetti. Ma io con te, ieri sera c'era anche Galliani al forum con la faccia da Istanbul, perché Galliani è notissimo tifoso dell'Armani, era lì con la faccia da Istanbul, l'hanno anche inquadrato, e secondo me ci ha anche un po' pensato a quella notte di Istanbul. Sì, credo di Istanbul. Che le sensazioni, ecco, siano state molto simili per chi le ha vissute, naturalmente da dirigente in quel caso, da tifoso in quest'altro, però insomma c'è stato un po' questo senso di paralisi e di improvvisa impotenza, insomma, che colpisce le squadre. Insomma, sarebbe interessante chiedere a un pool di psicologi di spiegare come è possibile che questo accada e come si può poi metabolizzare, perché ce ne vuole uno bravo. Però senti Marco, Galliani era lì con i conti del commercialista in tasca, perché io di questo volevo parlare con te, 15,7 milioni di passivo per il Milan, una cifra che vista così per un quello che vorrebbe ancora diventare, essere un top club europeo, non mi sembra una cosa clamorosa. No, è segno di un processo, ecco, di aggiustamento dei conti, no? Ricordiamo che il Milan fino al 2011 perdeva 60-70 milioni all'anno, nel 2012 ne ha persi 7, ora siamo a 15. Il problema è che bisogna un po' scavare in questi conti per capire come si sono determinati poi certi risultati, e soprattutto per capire quello che i tifosi si devono aspettare. Insomma, questo credo sia fondamentale, penso sia la cosa che interessa di più a chi ci sta ascoltando in questo momento. Quindi? Insomma, c'è una notizia positiva e una negativa, come in tutte le cose, per cui sta a te chiedermi, insomma, quale delle due per prima bisogna affrontare, quale è più cauto affrontare con i tifosi, insomma. Preferisci, ecco, che parta dalle note dolenti o da quelle? Sì, no, da quelle dolenti, che sono sempre quelle che mi divertono di più. Guarda, quelle dolenti riguardano appunto il fatturato. Il fatturato è crollato di circa 50 milioni. Vabbè, non ci sono più le plusvalenze dell'anno precedente, Ibra e Thiago Silva, una peggiore prestazione in Europa che ha comportato minori introiti, ma il vero problema è che le altre voci strutturali, quelle da stadio, per esempio, sono in calo da 33 a 28 milioni, rimaniamo lontanissime dalle big europee. Quelle commerciali sono sugli 80 milioni, Milan è il primo in Italia, ma anche qui fa meno della metà delle big europee. Questo significa che non è stato fatto abbastanza per rilanciare il business, il modello di business. Il viaggio recente di Barbara Berlusconi negli Emirati, mi auguro che possa, insomma, portare un'inversione di tendenza, ma su quel fronte, ahimè, siamo fermi. La notizia positiva per chi guarda il bilancio è il fatto invece che il monte ingaggi è stato ridotto finalmente ad una cifra accettabile visto il livello di fatturato. Siamo arrivati a 150 milioni, solo due anni fa eravamo a 200 milioni. Ora ovviamente tu osserverai che questo ha comportato anche un impoverimento tecnico della rosa. Sì, certo. Questo è evidente, però diciamo, ecco, che il Milan ha pareggiato il livello della Juventus. Sì. Poco tempo fa Andrea Agnelli, prima che iniziasse il calciomercato estivo l'anno scorso, ha detto che la Juve, visto il suo fatturato, poteva permettersi un costo della rosa di circa 200 milioni, 150 di ingaggi e 50 di ammortamenti. Ora il Milan, che più o meno ha lo stesso livello di fatturato della Juventus, è sceso anche a 200 milioni, cioè 150 di ingaggi e 50 di ammortamenti. 144, per la precisione se non sbaglio, di ingaggi, che monte ingaggi che è sceso appunto nell'ultimo esercizio. Tra l'altro io volevo sottoporti un ulteriore argomento di considerazione, perché l'altro giorno avevo questa interessante lettura delle ultime 10-11 sessioni di mercato, quindi sostanzialmente gli ultimi 5 anni, e il Milan aveva, vabbè, Atletico Madrid mi sembra più 38, cioè l'esempio più clamoroso di costruzione di una squadra vincente guadagnando dei soldi. Il Milan però era in netto saldo positivo, più 20, più 18, una cifra di questo tipo. Sì, perché sarà fatta appunto una campagna diretta a vendere i pezzi pregiati. Thiago Silva e Ibrahimovic sono, diciamo, l'affare più clamoroso, no? Con il Paris Saint-Germain. Il problema adesso è essere chiari con i tifosi, e Barbara Berlusconi lo è stata, ha detto, insomma, sposiamo la linea verde. Non so quanto le curve siano felici di questa indicazione, ma i conti ci dicono che quella è la strada che si deve percorrere, perché i parametri zero vanno bene se prendi dei giocatori che possono fare da chioccia, ma per ridare smalto, ridare slancio nel giro di 2-3 anni alla squadra e quindi tornare a vincere e quindi far salire quei si benedetti o maledetti a seconda dei punti di vista dei carri commerciali, insomma, bisogna investire su giocatori che costino poco, soprattutto in termini di ingaggio, al di là del cartellino, e che ti permettano appunto di costruire una squadra solida, una squadra coesa. Ed Atletico Madrid, che citavi tu, è l'esempio più clamoroso. Insomma, Atletico Madrid ha il fatturato più basso tra le big europee, circa 120-130 milioni, eppure, insomma, è lì a contendersi il trofeo più prestigioso, perché ha fatto una politica di questo tipo. Ha venduto Torres, ricorderai, qualche anno fa, certo. Ha venduto l'anno scorso un giocatore che si chiama Falcao per circa 60 milioni, ora ne ha un altro pronto per essere venduto, e Diego Costa. Sai qual è la somma di tutto questo? Insomma, di tutto questo, che bisogna essere bravi, cioè bisogna essere bravi ad andare a lavorare sui giocatori in ingresso e in uscita. È un po' la politica che da anni fa l'Udinese, ovviamente in piccolo, che sta cominciando a fare anche il Napoli correttamente, perché questa è la strada. Purtroppo la competenza al supermercato non c'è, o almeno costa cara. Scusami, no, appunto, su Diego Costa mi veniva in mente questa, cioè Diego Costa non è che è esploso all'improvviso, insomma, Atletico lo ha preso, lo ha fatto giocare in varie squadre, sì. Insomma, ci ha creduto. In molti casi noi abbiamo invece squadre che acquistano un giocatore, magari anche pagando molto, e penso al caso per esempio di Edu Vargas del Napoli, che ora è al Valencia e sta facendo molto bene, però poi appunto lo abbandonano, e in questo modo non solo, insomma, accettano una perdita, perché Napoli per esempio Edu Vargas l'ha pagato tanti soldi, 11-12 milioni, insomma, ed è un peccato poi perderlo a parametro zero. Si può anche sbagliare, poi bisogna capire quanto insistere su un gioco giocatore che non ti convince, oppure se lasciano andare perdendo dei soldi, sono casi anche della Juventus. Marco, ti ringrazio, dobbiamo sentire la borsa. Grazie mille. A presto, ciao Carlo. A presto, ciao Marco Beninazio, siete bravissimi con le storie dei suicidi sportivi. Un sacco di sms, ma aspetto le vostre telefonate. 800 24 00 24. Tutti convocati. ...2.50 da giocare, più 10 per Milano. 50 secondi, Milano vicinissima a conquistare questa gara a 1. Quasi fatta, ma non è ancora fatta, anche perché il Maccabi costruisce un tiro velocissimo. Un gran lavoro di David Blatt, che ha preparato una rimessa perfetta. E adesso è 4, solo di 4 punti il vantaggio milanese. Nel ciclismo alzi le mani dal manubrio troppo presto, però io ci vedo più meriti del Maccabi, anche un po' di casualità. Non può commettere fallo Milano. Rice si butta dentro, la penetrazione, si appoggia al tabellone. Rice col fallo subito di Gerrans, parità e tiro libero per Tyrese Rice. 4 secondi, 3 contro Ikman, il tiro, il fallo, e il canestro che non arriva, ma a 7 decimi dalla fine arriva un fischio che può salvare Milano. E segna il primo, il pareggio c'è per Milano, 87 pari. Secondo tiro libero per Keith Lanford, che sbaglia il rimbalzo di Ingles e si va al supplementare. Overtime al Forum. E poi il finale lo conosciamo, mancano solo 2 colpi di pistola da sentire in rapida successione. Suicidio sportivo perfetto. Come ce ne sono stati molti nella storia dello sport, ma siete bravissimi a ricordarli, ma veramente bravi, eh? I miei complimenti a tutti i convocati. 800 24 00 24. Anna grandissima, 31 maggio 1998, finale scudetto Virtus Fortitudo. Basket anche qui. Fortitudo vinceva di 4 punti a 20 secondi dalla fine. Sarebbe stato il suo primo scudetto. Poi è arrivato il tiro da 3 più 1 del maledetto Danilovic per il pareggio. Azione successiva, Wilkins che si palleggia su un piede andando verso il canestro della Virtus. Ancora piango, forza Fortitudo comunque. Questo se lo ricorda benissimo anche Mario Boni. Ciao Mario. Ciao Carlo. Come Ciao, stai? Buongiorno. Tutto bene, tutto alla grande. Io devo correggere il tiro di tre punti di Danilovic, sì, su fallo di Zancanella, chiamato fallo Zancanella, se ti ricordi, l'arbitro, sì, Zancanella. Io ricordo sempre, sì, bene gli arbitri. Qui c'era però, eh. Ma sai, lì poi è sempre, sai, come la borraccia di Coppi e Bartali, che se l'ha passata chi a chi, non si sa. Comunque è stato bravo da Dio, sicuro. Il tuo suicidio sportivo perfetto, cioè quello che ricordi con maggiore rabbia, vabbè, 5 maggio lasciamo stare, che quello lo so. Quello da mettersi a piangere ogni volta, però ci siamo, sì, consolati nel 2010, diciamo, sì, così. Quali altri ricordi? Ti è capitata una situazione di questo tipo? Ma così, adesso su due piedi... Ho difficoltà a ricordare ieri, ecco, il, sì, Milano. Devo dire però, Carlo, che giocare al meglio delle 5 partite, cioè di vincere 3, dà ampio margine di ripresa. E ti dirò, vincere fuori casa non è così improbo. Io ricordo quando ho vinto la Coppa Kovac, perdemmo la prima partita in casa contro i turchi di 11 punti. Andammo a vincere contro i futuri campioni di Turchia a Bursa di 22, quindi... Ecco, quindi Milano ha perso, però le possibilità sono ampiamente aperte. Sì, poi sono anche suicidi sportivi perfetti a nostro vantaggio, perché possiamo ricordare quella partita storica della Milano di Dan Peterson contro teorico era Salonico, no? Esatto, che era con Ioannidis, l'allenatore, che fumava in panchina, ricordo benissimo, sì, che si accese anche una sigaretta, straordinario, momenti straordinari. Sì, beh, ai tempi c'era anche il professor Nikolić che non disdegnava le bionde durante le partite. A proposito di bionde, questa Milano mi sembra una donna ormai bellissima, forse ancora però un po' immatura. Ma io ho notato due cose, poi il braccino corto non solo nei tiri liberi, che sai che quando uno tira a volte è una statistica che non si fa abbastanza attenzione quanto sono importanti i tiri liberi, però ecco, ha smesso di giocare, su più 12 a meno di 4 minuti dal termine ha smesso di giocare ed è stato bravo il Maccabi a rientrare. In ogni caso Milano è una gran squadra, Carlo, perché insomma la formazione è completa, lunghi, corti, ha preso anche Daniel Hackett, è rientrato Kitrenko, mancava Gentile, però insomma la squadra a me piace, consideriamola un incidente di percorso e sì, ne mancano ancora tanto, come tutte le serie, perché sì, anche sì, le squadre sicuro greche che hanno perso, attenzione. Sicuro, però sai, alla fine le due partite in cui questa, come ricordi tu, è una serie ancora lunga, al meglio delle 5, tutta da giocare, si comincia in trasferta, eccetera, però fin qui le due partite di maggiore impatto emotivo che sono state quella in Coppa Italia, dentro o fuori, e questa le ha perse. Vedendo così, sì, partita secca, secchissima come quella Coppa Italia, uno straordinario Drake Diner ha messo l'altra a Milano, è maturata a Milano, però è maturata, ha preso Hackett, o meno c'era anche Hackett in Coppa Italia, però ecco, è una squadra diversa, la vedo che ha trovato i propri equilibri. Io non sarei così spaventato, ovvio che è giusto analizzare la sconfitta, è giusto dare un risvolto anche giornalistico a tutto, però ecco, non era pensabile fare vincere due in casa, magari perdere a Tel Aviv e poi l'apoteosi della quinta partita a Milano. Secondo me la quinta partita a Milano ci può essere e sarà ugualmente un'apoteosi. Sì, Mario, volevo parlare con te anche di un'altra cosa che in parte riguarda la tua nuova veste, perché sotto la superficie dorata, no? di queste final, di questi quarti finali di Eurolega, di Milano che è tornata ad essere grande, eccetera, sotto questa superficie ci sono dei segnali un po' così, cioè Siena verso il fallimento e poi rivendicazioni sindacali che conosco bene, nelle minors, Golden e Silver, giocatori che chiedono rispetto. Bravo Carlo, sì, mi dai l'opportunità di parlare di questa situazione che al di là, come dicevi, dei professionisti in A1 e dell'Eurolega, che è una cosa bellissima, il vero mondo della pallacanestro è tra i dilettanti, la Lega Silver, la Gold, la DNB, la DNC, che vivono momenti molto difficili. Noi di CIVA, che siamo l'associazione dei giocatori che vede il presidente Alessandro Marzoli, abbiamo un po' puntato il dito contro alcune situazioni come le fiduzioni molto basse. Io parlo sempre poi di stipendi, a volte chi ci sta ascoltando si pensa che i lavoratori della pallacanestro siano stipendi altisonanti, invece sono stipendi molto bassi e spesso volentieri neppure garantiti. Quello che abbiamo voluto fare domenica è una rivendicazione, nel senso chiedere maggiori certezze, maggiori serenità ai lavoratori della pallacanestro che non hanno. Io mi auguro, grazie a te, alla tua trasmissione Radio 24, che sia il presidente della Federazione Petrucci, anche del CONI Malagò, prestino l'attenzione alle esigenze dei giocatori dilettanti, che sono la vera massa e la vera base della pallacanestro d'Italia. Quindi, certo. Comunque se avete rivendicazioni sindacali io sono qui, non ti preoccupare. Allora vai tranquillo. Verrò in trasmissione e parleremo anche di questo insieme ad altre cose, anche della mia Inter. Sì, della tua Inter. Pierluigi Pardo, ciao. Eccoci, come va? Dove stavi? In vari posti. Su un treno, adesso su una macchina, insomma, diciamo, vari mezzi di trasporto. No, io guarda che io ti controllo, ti controllo, Senti, ma benissimo, tra poco ti chiedo del tuo suicidio sportivo preferito, di quello che ricordi meglio, perché c'è stato quello di Milano, gli ascoltatori oggi si stanno scatenando a proposito di suicidi sportivi perfetti. Mario Boni, cosa vuoi chiedere a Pardo sull'Inter? Cosa ti interessa sapere? Ciao, complimenti, sei straordinario, mi fai ogni volta divertire, sempre con grande competenza. Ecco, dimmi dell'Inter, ma Icardi rimarrà oppure adesso che vale 2 lire in più lo vendono subito? lo vendono a Twitter, fa il testimonial, prende una barca di soldi per fare il testimonial. La foto con le corna sul volante poteva risparmiarsela, non solo quella. Siamo d'accordo, abbiamo parlato. ne abbiamo parlato lungamente in questi giorni. No, devo dire che io penso che Icardi sia al netto di tutte le scivolate fuori campo che sicuramente ci sono state in questi mesi, ma insomma mi sembra che quando è integro dal punto di vista fisico è un giocatore importante sul quale costruire il futuro dell'Inter, quindi io penso che rimarrà assolutamente, penso di sì, penso che non so se farà le cose in grande, però insomma io penso che gli investimenti alla fine li farà. Io sono rimasto abbastanza colpito comunque dal modo nel quale è entrato in scena nel mercato di gennaio, al di là del fatto che poi chiaramente l'Inter di per lì non ci ha fatto una bella figura perché l'accordo con la Juve c'era, ma insomma al di là di questo aspetto formale comunque Toir è entrato in campo, ha fatto un investimento per Hernanes. Perdonami, io mi sarei augurato che l'impegno fosse rispettato, anche perché come ha giocato poi Guarin, ecco, non è che abbia fatto splendore, ecco. Sì. No, vabbè, però io devo dirti che secondo me se capto un po' gli umori fino a quel Livorno-Inter in realtà nessuno era diventato così polemico, poi c'è stato quell'episodio clamoroso in una partita clamorosa e deludente, quindi qualcuno magari si sarà pentito di essere sceso in piazza per manifestare, ma anche detto che Vucic in questi mesi è non pervenuto, quindi non gioca, cioè non lo fa giocare mai, può pervenire dalla tribuna, dalla panchina. No, chiaro. Se non perviene, non perviene. Mario, vai tranquillo che Icardi lo vendono. Sereno. Vai sereno che Icardi lo vendono. Bravo, ho già capito tutto, via. Ciao Marione, grazie. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Oh, che Luigi sta lì, traffico. Poi parliamo con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Pierluigi, ti licenzio. Tutti convocati. Allora Pierluigi Pardo, qual è stato il suicidio sportivo perfetto che ti è capitato di raccontare come telecronista? No, guarda, il primo suicidio che mi viene in mente è quello del Portogallo nella finale dell'Europeo del 2004, quello che ho diciamo più nel cuore in senso sportivo. Sì, quello che emotivo. Mi ricordo con più trasporto. Poi chissà quanti altri ce ne sono, vabbè, insomma, io penso che i tifosi del Milan comunque hanno vissuto qualcosa di incredibile, ecco, sì. Il Liverpool. Qualcuno ricorda Inter Bayern 1-3 dell'88-89, sì. Qualcuno ricorda Roma, grande classico Roma Lecce 5 maggio, Perugia-Juve, ci sono un po' di cose, Lazio Inter appunto l'hai fatto bene a ricordarlo. No, io mi ricordo un po' diciamo dall'età, mi ricordo questo Portogallo-Grecia perché veramente era tutto apparecchiato perché il Portogallo potesse vincere l'Europeo. C'era un'atmosfera bellissima e mi ricordo dire la grande compostezza del pubblico portoghese a fine partita. Me la ricordo come un bel segno di civiltà, nel senso che non ci furono tafferugli, non ci furono disordini, c'era ovviamente molta tristezza, ma una tristezza composta, e quindi questa cosa ce l'ho dentro. Poi vabbè, Milan-Liverpool è stato sicuramente più spettacolare, anche perché però adesso non voglio mettere lì una piaga, di così il Milan mi perdoneranno, però insomma ho vari ricordi di quella partita, per esempio il fatto di essere stato nell'intervallo con Marco Foroni nella zona delle interviste flash che era attaccata ai due spogliatoi, e io posso giurare per quello che ho sentito io di non aver colto nessuna di quelle cose che poi di quelle leggende metropolitane che sono venute fuori dopo, no? Si è detto che Milan stava già festeggiando, che stavano cambiati, stavano messi la maglietta sotto, cioè io non mi accorsi di nulla. E ho il ricordo di questa chiacchierata con Marco Foroni e con Alan Kennedy, ex giocatore del Liverpool, Liverpool degli anni 80, quando vinse la finale di Champions League di Coppa dei Campioni contro la Roma, tirando fra l'altro rigore all'Olimpico, che era devastato, era letteralmente asfaltato alla fine del primo tempo perché si aspettava una partita completamente diversa. E poi su quella partita lì devo dire che la definizione che si è sentita mille volte, ma vale la pena sentirla per la milleunesima, la definizione ideale e geniale, sarà quella di Arrigo Sacchi, che ha detto: primo tempo grande lezione di calcio, secondo tempo grande lezione di sport, nel senso che lì poi successero delle cose veramente incredibili. Ci fu questo ritorno in campo con i tifosi del Liverpool che cominciarono a cantare You'll Never Walk Alone senza soluzione di continuità per i primi minuti, come se stessero vincendo loro 3-0. Sì, e sì, quella sì. fu una scossa. Poi è ovvio che se la rigiochi altre mille volte nella partita, no, è normale. Ma poi, la cosa in queste situazioni c'è un altro dettaglio. Mi è capitato anche di provare quella sensazione guardando ieri sera la partita di Milano nel basket, cioè che quando arrivi, sei rimontato, poi hai la coda, l'ultima chance, l'ultima possibilità. In quel caso furono i rigori. Ieri è stato supplementare, cioè tu sai già che non c'è una chance che la squadra rimontata possa vincere, cioè, questo non succede mai, sai perfettamente che è così, non c'è una ragione che non sia emotiva, che non sia psicologica, che non sia spirituale. È drammaticamente il ricordo di Rotterdam, adesso vedi, non c'è opera Rotterdam fu una cosa di un dolore proprio cosmico, perché vabbè, non facevo ancora questo lavoro, però ero lì a vedere la partita ed ero tra l'altro in un settore con i tifosi i parenti dei giocatori della nazionale. C'era questo 1-0 del vecchio che era veramente un finale, un eventuale tabellino straordinario, no? Perché insomma veramente era con tutto rispetto per Del Vecchio, che è un ottimo giocatore, però era vincere la finale dell'Europeo col gol in fondo di un outsider. Sì. Poi le palle gol che abbiamo, mamma mia, un dolore. E mi ricordo benissimo fosse ieri, che quest'occhiata che ho dato al cronometro, all'orologio, prima di questo maledetto rinvio del portiere francese, dicendo: ma quando fischia questo? E quando fischia questo dopo il gol del gol, fischia dopo il gol del gol. Andata così. Mirko, buongiorno. Ciao Carlo, ciao, buongiorno. Dimmi. Un saluto a Bardo, bella Bardo. Bella Bardo. Senti, io il suicidio più che mi è rimasto impresso, ogni tanto ancora adesso penso alla faccia di Matteo. 1999, finale Manchester United Bayern Monaco al Bernabeu. Novantesimo, arbitro da 3 minuti di recupero. E calcio d'angolo e gol di Sheringham, se non erro. Sì. E un minuto e mezzo dopo, a 30 secondi dalla fine, il secondo gol di Solskjaer. Quello secondo me è stato il top. Sì, questo è un grande classico. Bravo Mirko, l'hai raccontato perfettamente. Pardo, voto alto al ricordo di quella partita. Voto alto, cioè un piccolo dettaglio, che era al Camp Nou e non al Bernabeu. Era al Camp Nou e non al Bernabeu, non è che siamo qui a fare. Stiamo a sottilizzare sulla locazione spagnola di quella famosissima finale. Lo posso dire che lo zio Bergomi, forma di telepatia, mi ha appena scritto Bayern Manchester, quindi ci sta ascoltando, lo salutiamo. E evidentemente come il nostro ascoltatore ha il ricordo di quella partita, che sì, è un'altra roba assurda. Inter-Samp 3-2, partita che ho commentato, della quale mi preso in giro per anni, perché su 2-0 dissi partita in cassaforte, c'erano i tifosi dell'Inter che stavano uscendo dallo stadio. Insomma, è la grandezza dello sport, Ma poi ci sono molti piccoli episodi, piccoli o grandi episodi nascosti nelle pieghe della passione di ciascuno, perché c'è anche chi ricorda Inter-Siena 4-3 in vantaggio, rimontati, ancora in vantaggio e poi beffati al 92esimo, retrocessi. Gabriele da Siena. Lo capisco, anche Inter-Parma andare lo stesso anno con due gol dell'Inter, uno sul rigore nel giro di un minuto e mezzo. Insomma, ci sono delle situazioni morose. Ci fu quel famoso derby di Torino vinto dal Toro. Diventa epico perché magari è in finale o perché è in una circostanza memorabile. Ci fu quel famoso derby vinto dal Toro, mi sembra il gol di Torrisi, no? Quel famoso derby vinto dal Torino in rimonta, lontanissimo nel tempo, stiamo parlando dei primi anni 80. Giovanni da Pavia, buongiorno. Buongiorno a lei e un saluto al suo ospite. Volevo fare una domanda al signor Pardo. Sì. Ma secondo lei, signor Pardo, la società Juventus farà degli investimenti per rinforzare la squadra della Coppa dei Campioni? Perché ora non sentiamo più niente, però abbiamo capito e sentito più o meno il senso della domanda. La Juventus farà investimenti, ma soprattutto, altro domandone che vi faccio: la Juventus cambierà l'allenatore? Ne parliamo dopo il GR. Bale, area di rigore! Bale! Un gol da 100 milioni di euro! È Io non sono affatto contento, essere contento è un eufemismo di come è cominciato il mondiale. Torno un po' indietro negli anni perché da questo momento lavorerò molto più all'interno della gestione sportiva. Il futuro mio penso che oggi sia rilevante. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Palombo. Prova ad andare in verticale verso Diana, di prima intenzione verso Tonetto. Pallone insidioso, Tonetto! 1-0 Samp. La gioia di Tonetto. Palla nella zona di Flati. Che difende questo pallone ancora per Diana. C'è una voragine per Kutuzov. Pallone nella zona di Kutuzov. Controllo, 1-1 con Ebrei. Kutuzov! 2-0. Forte contropiede micidiale della squadra. Martins, Martins 2-1, riapre la partita. Oba, oba, Martins. Rende 2-2, il pareggio di Milton. Oba, Pieri, incredibile. Verso gara 11, il cross in mezzo, anticipato Vieri, poi Stankovic, tocco dietro, incredibile, 2-2, incredibile, incredibile, cosa abbiamo vinto? Ha vinto l'Inter, ha vinto una partita incredibile, dove per 85 minuti la Samp sembrava in controllo assoluto. Oh, bravo, partita in cassaforte, bravo. Lo so. C'erano proprio quelli che se andavano via, c'era tutto proprio l'esodo. C'erano le tessere che volavano dal terzo anello, i cuscinetti, quelle cose lì, motorini no, ma volava tutto il resto già dal terzo anello. Vergognatevi le tessere, i cuscinetti, tam tam tam, e il Cino Recoba. Senti, prima di... Anche il cross di Garagunis, roba seria, sì, proprio, sì, molto sì, vintage. Sì. Senti, molto vite, bravo. Prima di Paolo dalla provincia di Cuneo, Antonio dalla provincia di Cosenza, 800 24 00 24, le ragazze del centralino stanno impazzendo, ti dico oggi. Sulla Juve, l'ascoltatore di prima ha detto: ma la Juve farà investimenti per continuare a seguire il Champions League? Ma soprattutto io ti chiedo, viste le... cioè, anche questo messaggio di Bernardo da Roma, senti, suicidio sportivo più bello, la Juve che quest'anno perde lo scudetto all'ultima giornata con la Roma a pari punti per differenza reti, più che suicidio sportivo perfetto, questo mi sembra un sogno giallorosso. Un caso per scontro diretto, perché sì. Scontro diretto. Sì, no, ma questo mi sembra un sogno hard dei tifosi della Roma. Ma soprattutto la Juventus cambierà allenatore. Come leggi queste ultime quest'ultimo rimpiattino del contratto di Conte, che tra l'altro ne aveva parlato anche domenica, no? Sentiamolo. Il futuro mio penso che oggi sia irrilevante, perché sia molto più importante concentrarci in questo mese, qualche giorno che manca alla fine del campionato, per cercare di conseguire il massimo, ecco, di quello che si può fare. Il resto, ripeto, in questo momento è veramente irrilevante, non deve preoccupare a me e a nessuno, ecco. Dunque, che fa Conte? Allora, io penso che Conte sicuramente ha delle offerte, insomma. Sì. Sicuramente ha delle offerte. Io penso che quella percentuale che dava la Gazzetta oggi, 75% sì, cioè rimanere alla Juve, 25% no, sia quella giusta, sia quella realistica, corretta, nel senso che, insomma, io credo che ci siano in questo momento molti più motivi perché possa continuare questo rapporto piuttosto che interrompersi. Detto questo, sicuramente quello che è successo in questi ultimi giorni, quindi questo strano, abbastanza inaspettato, abbastanza inatteso, questa schermaglia dialettica che c'è stata, è abbastanza strana, appunto, perché sembrava tutto apparecchiato e quindi non si può escludere nulla. Io credo che Conte comunque sia un allenatore che sta catturando l'attenzione internazionale. Non vedo Conte in un'altra squadra italiana che non sia la Juve. Mi sembra difficile però che possa arrivare un'offerta clamorosa per lui in questo momento, per clamorosa intendo il Barcellona, intendo sì, realtà anche se Pier, molte cose si stanno muovendo e molte cose si muoveranno, è tutto molto mobile, in maniera inaspettata. Il Barcellona cambierà sicuramente allenatore. Simeone potrebbe avere l'ambizione, tra l'altro veniva indicato come una possibile alternativa in caso di partenza di Conte, potrebbe avere anche l'ambizione di cimentarsi da qualche altra parte, nel senso se dovesse vincere il campionato o la Champions, una di queste due cose, la sua stagione sarebbe stata pazzesca, gigantesca, quindi è chiaro che potrebbe andare dove vuole lui, secondo me, insomma. Ci sono tante società anche importanti che possono cambiare allenatore. Manchester City ieri si è impantanato, Pellegrini lo vedo più di là che di qua, insomma, Paris Saint Germain idem, insomma ci sono tutta una serie di variabili interessanti. È chiaro che però come abbiamo detto molte volte in questi giorni, alzare l'Europa League oppure no per lo status europeo di Conte farebbe una grandissima differenza. Poi non so se il sentimento dei tifosi della Juventus siano come quelli di Fabio da Torino, che scrive: da juventino sono stufo che ogni anno a fine stagione Conte tiri la corda. Dica chiaramente una volta per tutte se sposa un progetto a lungo termine, altrimenti non vogliamo elemosinare nulla, siamo la Juve. Questo scrive Fabio. Paolo, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo parlare di due suicidi che mi ricordano il Brasile, uno a nostro favore, uno dell'82. Sì. Quello del pallavolo nel Londra 2012. Come no? Vabbè, pallavolo 2-0. Sì. E hanno perso il tie-break con la Russia 3-2. Sì, ha fatto benissimo. Il primo lo conoscono anche le pietre di ogni fiume. Anche quello del 50, in effetti, no? Non c'eravamo, però. Il Brasile che perde in casa il mondiale contro l'Uruguay in rimonta a Maracanã, insomma. Roba abbastanza clamorosa. Sì, vabbè, quello è stato epocale, tanto che è stato rivisitato in uno spot molto, molto divertente, andare in onda, di una nota marca di abbigliamento sportivo che ha proposto questo fantasma dell'Uruguay, no? Uno vestito da fantasma con il lenzuolo celeste che volteggia sul Brasile, molto divertente quello. Antonio? Tu? Antonio no, vabbè. 800 24 00 24, numero verde. Tanto dicevamo di Conte, ma vorrei parlare anche di Martino, del Barcellona e di... Hai sentito delle contestazioni? Di queste contestazioni, perché alla fine noi chiamiamo, no, tutte le volte, ma siamo stupidi, facciamo le contestazioni, non siamo capaci di perdere, non abbiamo la cultura della sconfitta. Anche al Barcellona ieri sera, Barcellona che ha perso la Coppa del Re con il Real Madrid, ebbene, notte da incubo, leggo l'agenzia, del Barcellona al Mestalla di Valencia dopo con la sconfitta, va bene, alla finale di Coppa del Re, un gruppetto di tifosi ha atteso la squadra allo stadio al grido di mercenari. Tra i più bersagliati, secondo quanto riporta la stampa spagnola, il tecnico Gerardo Martino, sollecitato a dare le dimissioni, e, udite udite, Leo Messi, accusato di scarso impegno. Non ti sei nemmeno bagnato la maglia di sudore, gli hanno detto. Si è così ripetuta la contestazione seguita a rientro da Granada dopo il KO nell'ultimo turno di campionato. Non ti sei nemmeno bagnato la maglia di sudore. Deportiva. Intenta sacar el Real Madrid por medio de Fabio Coentrao, sufriendo más en la segunda parte con Messi con la banda derecha. Ahí va. Viene la pelota con Gareth Bale para Messi. ¡Qué carrera de Bale! Viene solo Benzema, dásela. ¡Qué golazo! Veteranos y noveles. Soffrire in queste partite è normale. Abbiamo vinto al finale, credo nel complesso meritando, perché è vero che abbiamo difeso, ma abbiamo avuto secondo tempo molte opportunità per chiuderla. Credo che il lavoro che stiamo facendo è molto buono, siamo in competizione su tutti i fronti. La coppetta l'abbiamo portata a casa, adesso lavoriamo per quell'altra. Madrid. parte Bale e se ne va, resiste alla carica di Bartra, Bale, area di rigore, Bale, Bale, un gol da 100 milioni di euro, eccolo il gol di Bale, una giocata pazzesca, per forza, corsa, intensità, respira Ancelotti, 2-1 Real Madrid. Olé! Questo non è stato un suicidio sportivo di nessuno, è stato il killer instinct del Real Madrid di Carletto Ancelotti. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Eccolo qua. Stavo parlando con Pardo delle contestazioni a Messi. A proposito, sì, Pierluigi. Un titolo durissimo dell'Avanguardia, che ovviamente è un giornale molto vicino alla presidenza, che se la prende, sì, se la prende con Messi. Però non so, è chiaro che Messi finisce sul tavolo degli imputati, però per tutto quello che ha fatto negli ultimi 6 o 7 anni. E io la vedo personalmente, ci sta un calo e magari ci sta anche perché c'è il mondiale. Voglio dire, sì. Leo Messi ha vinto 4 palloni d'oro consecutivi. Filippo, un calo ci sta, però caro Pierluigi Pardo, non ci sta l'atteggiamento di Messi nella partita di ieri sera, nel ritorno di Champions League, in tutto quest'ultimo periodo. E ci se sta... non ne avesse più, se in questo momento non ne avesse, non si può cancellare pure il passato. Cioè, questo è un ragazzo che li ha portati solo in cima al mondo. Io trovo che veramente questa vicenda sia paradigmatica di che cos'è il calcio. Non è in forma, è in calo, ragazzi. Sì, è un mondo, è un circo senza memoria, dai. Non si può attaccare Messi, ragazzi. Io penso che se c'è un tifoso del Barcellona che ha goduto in questi anni è il tifoso del Barcellona. Uno per volta. È chiaro che si è abituato al concetto di vittoria sempre e comunque, e quindi quando questa vittoria non arriva fai fatica ad accettarlo, no? Sono abituati troppo bene, ma è anche vero che nel calcio comunque si è sempre in due e non sempre si può vincere, e tutto e nulla è eterno, quindi questa generazione fantastica di calciatori incredibili probabilmente ne ha un po' meno che nel passato. E poi alla fine se perderà tutto lo avrà perso per dei dettagli, poi sicuramente il bilancio della stagione è fallimentare, sicuramente Martino non rimarrà, sicuramente bisogna lavorare per capire le cose che non vanno, ma insomma la contestazione a Barcellona mi fa un po' ridere. Fa molto ridere anche a me, e ha ragione Filippo Mariareggio, un calo ci sta, eccetera eccetera, però nulla è eterno, ma mi sembra che ci siano anche altre cose dietro questo calo di Messi. Ma il problema vero però è quello della dirigenza, cioè la dirigenza ha buttato via un anno o un anno e mezzo. Prima allora c'è la scelta di Guido Villanova, ovviamente la scelta migliore perché è continuista, no? È l'allievo di Guardiola, il suo aiutante, lo stratega e tutto, però Tito era già stato male quando l'hanno scelto, era già stato male sul serio, e non è che stiamo parlando di un raffreddore, va bene, comunque lo vuole, e quindi loro al primo anno più o meno lo portano a casa questa Liga, lo salvano in qualche modo senza allenatore, in autogestione assoluta, e questo ovviamente brucia altre energie anche ai giocatori, perché Xavi e Messi sono stati quelli che si sono rimboccati le maniche per portare a casa la Liga. Dopodiché ti rendi conto ad agosto che Tito sta male e lo devi sostituire, a quel punto chiami un allenatore che viene catapultato in una realtà che non è la sua. Per me è stato bravissimo, cioè Martino non si è mai lamentato, non ha fatto niente della squadra, non ha potuto decidere nulla. Una dirigenza per me scandalosa. Il caso Neymar, il presidente se ne va senza dire una parola, se n'è andato. Dimissioni così. La questione FIFA, hanno in maniera plateale hanno infratto le regole, però pensavano di poterlo fare perché sono il Barça. E chiamano un allenatore che alla fine pensavano giustamente di poter controllare, e questo è il risultato. I giocatori sono, cioè per me ci sta, cioè la cosa viene da lontano. Come hanno fatto a non comprare un centrale? Perché spendi 100 milioni per comprare Neymar e non compri un centrale difensivo? Perché la politica è quella. Assolutamente, guarda, io trovo che il Barcellona di quest'ultimo periodo abbia commesso lo stesso errore del Real Madrid galattico di qualche anno fa, nel senso che questa è una squadra chiaramente difficilmente migliorabile. Per migliorarla hanno pensato di comprare Neymar, che era il giocatore, l'ennesimo talento, l'ennesimo prodigio, l'ennesimo tenore in una squadra che già ne aveva parecchi, e probabilmente invece aveva più senso rinforzare le palle, insomma, di Barcellona gioca sì, per poi è un acquisto che ha infastidito economicamente Messi e tutto il resto dello spogliatoio, perché voi tutti parlano di Messi del mal di pancia, ma sì. Io penso che Xavi e Iniesta forse qualche cosa da dire al ragazzino di 21 anni che guadagna il triplo di loro, magari ce l'hanno pure, no? Certamente, rompi degli equilibri. Rompe gli equilibri, perché, ma questo perché è un capriccio di Rosell, perché voleva più o meno dar fastidio, lui, cioè arriva Rosell e la prima cosa che fa è criticare Cruyff, quindi rompere col passato, che però era un passato glorioso, il rapporto con Guardiola molto teso, perché alla fine lì è un mondo, cioè di fatto di, cioè, è un covo di serpenti, e per quello il povero Tata Martino, che probabilmente non lo sapeva, si è ritrovato in una situazione pessima, però la gestione della squadra è fallimentare, insomma. Questo elemento qui, che secondo me non riguarda soltanto il Barcellona, cioè questo personalismo delle scelte dei dirigenti, secondo me è uno dei difetti del calcio spagnolo, che ovviamente ha mille pregi, visto che ultimamente ci dà lezioni sul campo purtroppo molto molto di continuo. Certo, però anche Bale è un caso simile, io non so sicuro quanto... che è simile. Bale è un caso simile, mi ricordo anche per esempio tutta la dinamica che c'era con Florentino Perez, Calderon, l'idea che alcuni giocatori sono veramente giocatori come i sottosegretari o le nomine di qualche tempo fa, no, col Cencelli della politica, venivano, c'era uno che era in area, che ne so, PLI, l'altro in area PSI, e anche gli acquisti del Real Madrid e del Barcellona tre volte sembrano degli acquisti di giocatori che hanno una loro etichetta, perché vengono associati inevitabilmente al presidente che li ha comprati. È sempre stato così, è proprio Pierluigi, è sempre stato così negli ultimi anni, il Real Madrid dei Galacticos e adesso il Real Madrid di Bale, questo, il Barcellona. Questo secondo me è un difetto che porta le due società principali. Sì, è un difetto, ma è una politica acclarata. Perché c'è l'aspetto elettorale. Ma c'è l'effetto elettorale. È il colpo elettorale. Che vale anche in Italia, una politica che vale anche in Italia, lo sappiamo bene, no? Sì, però in Italia anche Bale ieri ha fatto quel gol alla fine, diciamo così, però prima c'era da ammazzarlo per l'egoismo che aveva, c'è la partita, perché poi sai, alla fine poi sono dettagli. Neymar, il palo di Neymar entra, magari il Barcellona vince ai rigori e questo si parla di tutt'altro. Cioè Neymar ieri per me non ha fatto una partita, diciamo, da campione, ha fatto un gol da campione, però ancora non è un elemento, diciamo, non è un giocatore di squadra. Però insomma, perché risponde appunto a un criterio galattico e va avanti così un po' per la sua strada. Sì, c'è da domandarsi, non so se è in linea Pardo, No, è caduta la linea adesso. Ah, ecco, pensavo fossi io a cadere, guardate, guardavo il telefono, pensavo che fosse caduta la mia di linea. Sono autocaduto, non eri tu. Infatti visto che ho fatto una pausa perché ho guardato il telefono. Sì, me ne sono accorto. Il futuro come lo vedi adesso del Barcellona? Vabbè, Martino va via ed è acclarato. La squadra è a fine ciclo, ma questo è anche fisiologico, perché sì, nessuno è eterno. I giocatori con più di 30 anni, Carlo, sono pochi, sono 4-5, sono Valdés, Puyol che se ne vanno. Io... Xavi e poco Pinto, vabbè, che secondo portiere, e basta, gli altri sono tutti però secondo me conta anche la militanza sportiva, cioè conta anche l'anzianità di servizio in un certo club. Pier, sei tornato? Sì, sono qui. Eccolo. No, parlavamo di futuro per il Barcellona. Filippo ricordava giustamente come molti, come gli ultra trentenni siano pochi, dicevo che conta anche l'anzianità di servizio in un club. Io credo, ho l'impressione che questa squadra tutta intera sia a fine ciclo. È un ciclo che può certamente essere rinvigorito, magari senza stravolgimenti, però è indubbio come questa squadra, questa idea, questa filosofia sia un po' a fine ciclo. Il problema è capire ovviamente che succederà con il mercato. Questa è una squadra che chiaramente è migliorabile in questo momento, è una squadra che ha dei difetti strutturali abbastanza clamorosi per la forza che ha. Nel senso, stavo dicendo prima, una squadra che si è abituata nel tempo a giocare con Mascherano centrale di difesa, che per carità è un buon giocatore, ma insomma, voglio dire, pensi al Barcellona, no? Il Barcellona non è andato a prendere Thiago Silva in questi anni, non è andato a prendere Marquinhos, quello. È andato a prendere, Thiago Silva, non Neymar. Appunto, la squadra che ha preso. Si sono fatti scappare Thiago. Mattia Alcantara era il sostituto naturale di Xavi, perché adesso il vero problema del Barcellona è non c'è più Xavi è stanco, c'ha 34 anni e non fa più quella giravolta sul pallone. Ieri ancora ha dato quel passaggio magnifico a Neymar, sì. Cioè qualcosa fa ancora, ma è lì. Ma tu l'erede naturale l'hai mandato via. Dai, cioè, chiaro. Capito perché dice la dirigenza qui ha delle colpe notevoli? Perché il futuro alla fine devi trovare il nuovo Xavi e il resto più o meno te la puoi cavare. E poi c'è quel problema di Fabregas che Guardiola aveva evidenziato. Guardiola quando va via dà una lista di 4-5 giocatori da vendere: Dani Alves, Fabregas, Piqué e adesso non mi ricordo. E perché Fabregas, l'avete visto anche ieri, loro per fare questo stupido pentagono, finisce che Fabregas non sa dove andare. Messi anche lui viene schiacciato, non trova più la sua posizione. Neymar finisce addirittura a destra che non gli piace. Fabregas l'aveva voluto, è uno dei è come far entrare il classico piolo rotondo nel buco quadrato, non ce la fai e alla fine resterà bruciato Martino, com'è anche normale che sia. Filippo, ti ringrazio, ciao a voi, ciao, un abbraccio. So che devo salutare anche Pierluigi. Ma come vuoi, se vogliamo farci altri 10 minuti, di che vuoi parlare? Io voglio parlare con gli ascoltatori dopo la borsa. Parliamoci 10 minuti di grande livello, ma prima la borsa. 2-0, partita in cassaforte, contropiede micidiale della sera. Tutti convocati. A proposito di suicidi sportivi, ce n'è uno anche di freschissima cronaca di questa mattina a Monte Carlo con Fognini che ha dato di matto perché insomma sta vincendo con Tsonga 7-5 primo set, era 3 pari nel secondo, ha sbagliato 2 palle break, lì ha sbroccato, si è arrabbiato con l'arbitro, ha preso dei fischi eccetera eccetera, crollo nervoso totale, perde 3-6 il secondo set e 0-6 il terzo, quindi pasta Tsonga, suicidio sportivo anche per Fognini. A Pierluigi Pardo è rimasta a farmi compagnia. Sai che Pier, abbiamo bisogno di te come modello. Devi fare la foto con la nuova maglietta di tutti i convocati. Sì. Abbiamo varie X, spero, no? Sì, abbiamo tutto quello che vuoi. Dobbiamo fare queste foto. Sfilata qua sotto e via. Monterosa. Gianni Foggia, buongiorno. Buongiorno. Vi seguo da poco però assiduamente, complimenti. Grazie. Siete bravi. Grazie. Sì. Beh, che mi dice? Se potevo intervenire sulla questione Real Madrid-Barcellona, certo. Ma in effetti io credo che un'analisi molto semplice, il Barcellona ha perso la stessa partita che aveva perso con l'Atletico Madrid. Cioè con una squadra che è entrata in campo come il Real Madrid, che correvano tutti come dei pazzi, cioè fisicamente credo che il Barcellona abbia, oltre che tecnicamente, abbia perso la partita proprio lì, nel senso che ho visto una squadra molto più motivata e credo che le motivazioni in questi appuntamenti siano fondamentali. Ma io credo che motivazione ne avesse anche il Barça, però tutti questi sono segnali di fine ciclo, no? Di fine corsa, no, Pierluigi? Sì, sono piccoli dettagli, insomma, alla fine il Barcellona finirà, come ormai sembra certo, male la sua stagione, sarà stato per un passaggio a vuoto, per una serie di partite, di qualche partita condizionata episodi. Quindi tu non vedi possibilità per il Barça nemmeno per un campionato in cui è ancora ampiamente in corsa, deve ospitare l'Atletico Madrid, no? Il Barça secondo me si potrebbe trovare in una condizione abbastanza complessa l'ultima giornata, perché potrebbe rischiare, fermando l'Atletico Madrid, se non cambieranno le cose, di regalare il titolo al Real Madrid, senza un tipo di sviluppo che al momento è abbastanza... manca ancora qualche giornata, ma che solito siamo 82, 79, 78, l'ultima giornata c'è Barcellona Atletico Madrid, e quindi insomma in pratica se il Barça dovesse battere l'Atletico Madrid praticamente è lo scudetto al Real, e questo insomma sarebbe abbastanza diverso come dinamica, capire che cosa succede, magari assisteremo a degli o no anche in Spagna, insomma, poi la rivalità tra Barça è reale enorme, mentre la rivalità fra Marte e Atletico praticamente non esiste. Non esiste, naturalmente. Ho fatto la telecronaca, c'è una specie di gemellaggio in nome dell'antimadridismo, dell'antireal. Quindi, no, penso che abbia una squadra con una quantità importante di problemi. per quella che può essere la sua dimensione, una squadra comunque costruita male per quella che è la dimensione. Poi è tutto un effetto volano, per cui in momenti così ogni cosa che ti può andare storta ti va storta, compresi pali, traverse, sfiga assortite, quindi è il momento, no? Sappiamo benissimo come da questi momenti fai fatica ad uscire, perché ti senti tutto contro. Antonio, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, io faccio i complimenti in particolar modo a Pierluigi Pardo, che trovo veramente un fenomeno. E volevo ricordare, a proposito delle partite, così mi sono rimaste, però ce n'è una in particolare, forse sarà una rimonta provinciale, però io la trovo straordinaria. Mi riferisco a Juventus-Napoli 2-3, con la Juventus che si porta in vantaggio, va sul 2-0, e poi un doppio Hamsik e Zatolo ci fanno sognare e soprattutto fanno dire al grande Raffaele Auriemma: seppelliteci qui. In una delle sue più riuscite incarnazioni. Reincarnazioni. Ho fatto anche quella di partita. Devo dire che forse comincio a pensare che sono io che porto, non so se sfighe, fortuna, insomma, ma insomma che mi becco spesso delle partite. Sei l'uomo delle remontade. Quella fu abbastanza incredibile. È vero che era una Juve abbastanza in difficoltà, e proprio quella partita aprì un solco abbastanza pesante nell'autostima bianconera. Però capisco perfettamente che è stata una discreta libidine per i tifosi del Napoli, insomma. Rifammi Auriemma, per favore. Seppelliteci qui, vogliamo morire qui. Fabio, si conca la rete, Hugo Boss Campagnaro ha portato il Napoli in parità. Mi fa impazzire Auriemma. Pierluigi, dovete lasciarci qui. Vabbè, non vogliamo più andarcene, non vogliamo più vivere, perché quello che dovevamo vivere l'abbiamo già visto. Hai capito, Cempa? Pierluigi da Lodi, buongiorno. Ciao, grazie per la convocazione. Ciao. Sarò breve. Dimmi. Felipe Massa, campione del mondo per 14 secondi. Sì, bravo. Pensi così. Bravo Pierluigi, bravissimo. Felipe Massa, campione del mondo per 14 secondi. È veramente il suicidio automobilistico ideale, voglio dire. Sei campione del mondo, pam! Tuo papà è già al box col bandierone, no? Invece, bene, quello fu clamoroso davvero. Clamoroso, sì. Grazie. Roberto da Reggio Emilia, grazie. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io, siccome sono descendo dal Pubino, che faccio noleggiatore, non so se l'hanno detto, però mi ricordo Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United. A due minuti dalla fine 1-0 in Coppa dei Campioni, sì. 2-1 al Manchester. Sì, sì, sì, questa ce l'avevamo già nell'album di nell'album di oggi, ce lo manca, questa ce l'avevamo già, ma è uno del... È perché salga e scende dalla macchina per quella che... No, ma comunque questo è uno dei primi che vengono in mente, insomma, perché recente, poi fu davvero una cosa pazzesca. Non abbiamo parlato oggi, Pierluigi Pardo, di Icardi, di Vandanara, di Seedorf. Abbiamo parlato prima di Milan, però su Seedorf ce n'è una carina, cioè Vandanara, Icardi, lascia restare, se sei d'accordo. Sì, anche se io volevo dire una cosa che ieri adesso la dici, dilla. Ah no, pensavo di... No. Dilla. No, che poi ieri praticamente mi hanno fatto vedere un pezzo di Mughini, poi magari ci sappiano nei prossimi giorni a Tiki-Taka, in una ricostruzione secondo me splendida della vicenda fra Vandanara e Icardi, il duello sentimentale, amoroso, cistico dell'altro giorno, che è una cosa che mi ha fatto godere televisivamente, nel senso che andare avanti per un momento raccontando la storia in una maniera elegante, dotta e letteraria. In questa, là in mezzo c'era un apprezzamento sul comportamento dei tifosi della Samp, che è girato sul social network, che posso dire che da quel punto di vista io non condivido. Caduta la linea, ma già avevamo delle ampie avvisaglie. No, volevo dire che invece su Seedorf ogni giorno spunta un nuovo argomento del contendere, un nuovo inghippo. Ad esempio leggevo che ci sarebbero stati dei dialoghi tra Seedorf ed esponenti della Curva Sud, non è chiaro su cosa, ma il Milan non avrebbe gradito, e questo è un, o sarebbe un ulteriore argomento contro la permanenza di Seedorf al Milan. Credo che gli argomenti contro la permanenza di Seedorf al Milan, reali o pretestuosi, siano già sufficienti. Sappiamo bene come ci sono le lamentele dei giocatori, e Montolivo e Abate che non gioca più e teme di perdere la nazionale, e metà del gruppo degli italiani almeno che non sopporterebbe, non sopporta più, perché non è nemmeno il caso di usare condizionale l'allenatore olandese, eccetera. Si aggiunge a questo ulteriore elemento. Tornato Pierluigi, quantomeno per i saluti, sei? Sì, no, ho capito. Quindi volevo dire questa cosa qui, in pratica, che sì, veramente ci mancherebbe altro. Cioè, il pubblico, per me, nell'ambito, ma qualsiasi pubblico, non soltanto quello della Samp, nell'ambito della civiltà, nell'ambito del rispetto, nell'ambito della non violenza, poi la dinamica e la dialettica, soprattutto in una situazione forte come questa, nella quale Icardi, che poi uscirà vincitore dal duello, però è il primo che cerca la provocazione, insomma, io non riesco a sorprendermi del fatto che il pubblico lo abbia contestato e ci sia rimasto male, anche perché stiamo parlando di un ex giocatore della Sampdoria, quindi no. Siccome lì ero entusiasta, lo sono ancora, della dotta dissertazione di un minuto e mezzo di Mughini su tutta la vicenda, che secondo me era praticamente un manifesto su perché abbiamo parlato per tre giorni di bandanare Icardi, sì, perché comunque è un argomento che appassiona tutti per motivi che sono normalissimi. Ma non, certo, non dobbiamo vergognarci. Perché è stato qualcosa di molto sexy, no? È stata una vicenda onestamente molto sexy, quindi non dobbiamo vergognarci di essere arrapati di fronte a una vicenda sportiva di questo tipo. Non mi pare che ci sia nulla di male. No, volevo, prima di salutarti, chiederti un'ultima battuta su Seedorf, perché c'è questa voce che già ho riportato agli ascoltatori mentre tu eri impegnato col telefono, per cui ci sarebbero stati degli inciuci tra Seedorf ed esponenti della Curva Sud, cioè Seedorf sarebbe andato a parlare in senso lato con la Curva Sud, questo al Milan non sarebbe piaciuto, altro elemento che gioca contro la conferma di Seedorf. Mancata conferma che sembra ormai scontata. Beh, una voce che gira da un po' questa, io non so se sia vero o no. Io ribadisco quello che ho detto ieri, cioè prendere Seedorf a metà gennaio, fargli un contratto oltretutto non soltanto di 6 mesi e scaricarlo adesso è un non senso. È l'unica spiegazione che si può dare a questo tipo di... Ma tu credi che tutto questo si stiano cercando dei pretesti? Ci stiamo cercando delle motivazioni, perché onestamente di motivazioni reali, cioè non mi pare ce ne siano. Oggi, premesso che non è che stia facendo la stagione della vita, Seedorf, uscito dalla Coppa Italia, uscito male dalla Champions, però comunque mi sembra che ci sia il tempo stia volgendo al bello, quindi l'idea che aumenti la pressione in un momento come questo su Seedorf mi sembra abbastanza illogica. E l'unica spiegazione possibile è una spiegazione appunto politica, di equilibri che cambiano, e per cui evidentemente potrebbe tornare a essere forte la posizione di Galliani, come abbiamo letto in questi giorni da più parti, e quindi questo potrebbe chiamare soluzioni alternative, una su tutte quella di Inzaghi. Ma insomma mi sembra tutto molto internally focused, come dicono gli inglesi, cioè tutto molto focalizzato sull'interno, sì, non sui risultati esterni della squadra. Ma non lo è, perché se uno non conosce la situazione, voglio dire, dice ma questo perché lo mandate? L'avete preso, alla fine i risultati li sta in qualche maniera ottenendo, o mandate via, ma perché? Hai ragione. A gennaio avrei messo Tassotti, e semmai a quel punto avrei messo Inzaghi, gli avrei fatto fare il traghettatore, non avrei fatto il percorso inverso, ma sappiamo che lì quella partita di Reggio Emilia col Sassuolo ha portato un'accelerazione abbastanza imprevista, anche quello in qualche modo è stato un colpo di scena. Anche se però Pierluigi, a rileggere, cioè io non ho cambiato la mia idea, cioè se tu hai scelto e incoronato Seedorf come allenatore del futuro, come doveva essere, come era nei piani di Berlusconi, allora era giusto chiamarlo a... e tenerlo questa mezza stagione lo devi anche tenere adesso, non appunto, è che lo puoi, e questo vuol dire che proprio adesso che sta recuperando, mi sembra, e questo vuol dire che dentro lì qualche cosa è cambiato, ed è questa la situazione interessante. L'unica, ma vediamo, perché magari li cambia da qui a 20 giorni e sei ma secondo me l'unico elemento davvero pesante potrebbe essere questa malsopportazione da parte di molti giocatori nei confronti di Seedorf. Però queste situazioni sono normali, e normalmente una società forte e decisa dice: ragazzi, questo è il vostro allenatore, se non siete d'accordo regolate le vostre pendenze, e chi non vuole restare, ciao, dovremo rifare il mercato. Anche perché da questo punto di vista non è che Seedorf fosse uno sconosciuto, ma Seedorf è un personaggio che da sempre stato considerato estremamente carismatico all'interno di Milanello, ma non il personaggio in assoluto più morbido, con un consenso universale. Infatti, sì, molte delle perplessità di chi non voleva Seedorf qualche mese fa, e anche l'estate scorsa, quando c'è tutta la dialettica, alla fine venne tenuto un po' controvoglia Allegri, era proprio questa, cioè qualche dubbio non sull'intelligenza di Seedorf in discussione, no, sui suoi sistemi di Milanello potesse essere visto un po' ingombrante da alcuni. Certo, grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao. Domani ci sto, tra l'altro c'è Capuano domani. C'è Capuano, ma che fai? Comunicazione di servizio. Strani, questi weekend lunghi del signor Genta, bisogna indagare tutti le persone. Ti voglio bene, ciao. Strati, sì. Convocati. Passi indietro, forse anche tre, con questa partita. Insomma, l'ultimo anno aveva sempre manifestato alcuni problemi. Però basta con questa storia di metterci la faccia, poi ogni mi fai le facce, può solo quando se va tutto bene le metti. Cioè, la metto sempre quando va male, io ricordatelo. È troppo facile così. Troppo facile. Me l'ho detto che Fognini è sbroccato oggi a Monte Carlo, arrabbiatissimo, indicando con il dito la tribuna, no, sto dicendo proprio a te, non è chiarissimo il destinatario di questa invettiva. Pare che fosse il suo papà. Pare che fosse papà Fognini che lo ha fatto arrabbiare. Mettici la faccia tu, io ce la metto sempre, non solo quando le cose vanno bene. Alcuni dicono che invece il destinatario della raccomandata vocale fosse il suo allenatore Perlas. Comunque, fatto sta che Fognini aveva il match in mano, è sbroccata, ha perso. Questa è cronaca, stiamo parlando di suicidi sportivi. Stamattina ne abbiamo visto un altro. Piero Augusto Stagi, che piacere. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao. Suicidio sportivo di Bitossi, se lo ricordano tutti. Da tutto il giorno ne parliamo, no? Partendo da Milano del Basket di ieri sera, siamo passati attraverso la famosa notte di Istanbul. Ognuno ne ha uno da raccontare, quello di Bitossi ha fatto epoca. Te ne ricordi qualcun altro nel ciclismo? Ma ce ne sono tante, così eclatante, così importante. Un suicidio, mi ricordo ad esempio, non è un suicidio, ma è una beffa, al pari di quella di Franco Bitossi. Quella della sfida per la maglia gialla tra Greg LeMond e Laurent Fignon, che proprio all'ultima tappa si campilizzi 8 secondi di differenza, è un giro che ti va in fumo, quindi proprio sul traguardo, un po' come quando ormai stai preagustando il successo. Laurent Fignon era, non dico certo, ma molto convinto di respingere l'attacco del corridore americano, invece nella cronometro finale LeMond ribalta il risultato, sì, e per soli 8 secondi, certo, perdere porta un tour a casa, sui Campi Elisi, ma perdere un tour sui Campi Elisi, come si fa a dimenticarlo? Col palco lì sui Campi Elisi, è come perdere l'ultima kermesse, quando sei lì con lo champagne in mano, brindi, magari vai in fuga e perdi, impossibile. Invece quella volta lì accadde. Senti, dimmi in due parole, riassumi in due parole questa primavera del ciclismo molto grigia per gli italiani. In due parole è da dimenticare. Da dimenticare, bravissimo. Praticamente ti posso fare un telegramma, non dobbiamo neanche fare tanti riassunti. La Milano-Sanremo è andata così, alla fine la Milano-Sanremo è una corsa particolare dove l'incognita regna sovrana. E devo dire che comunque qualche giovane si è fatto vedere, come Sonny Colbrelli, come Enrico Battaglin, che è stato sfortunato che a 600 metri dal traguardo è caduto, come comunque Sascha Modolo, che per la prima volta con i galloni del capitano è arrivato lì a giocarsi la volata con Peter Sagan e Mark Cavendish. Invece poi per il resto dobbiamo dobbiamo solo stare zitti e cercare di capire cosa ci manca. Molto banalmente, cosa ci manca? Le gambe e il talento in questo momento. Ah, sicuro. C'è un cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi di 20-21 anni molto interessanti, ma non ancora pronti. Che forse hanno poca esperienza internazionale, che noi sbagliamo a tenere un po' troppo nella bambagia, e a differenza invece dei corridori nordici, che invece vengono buttati un pochino prima in campo. E poi soprattutto la grande delusione data da Filippo Pozzato, cioè un nome e un cognome in modo particolare, anche se non è più giovanissimo, però un corridore che ha sempre dimostrato di avere delle grandi attitudini per questo tipo di corse, e invece si è presentato malissimo. Cioè la sua stagione in pratica, non dico che è finita, ma quasi. Eh beh, certo, quello lui... che doveva ottenere lo doveva ottenere soprattutto nella campagna del nord, al Fiandre e alla certo. Parigi. Sono sempre state il suo territorio di caccia, si è presentato non all'altezza di questa situazione. Ciao Pier, ci sentiamo molto presto, io direi. Ci sentiamo molto presto, molto anche presto. Perché il Giro d'Italia sarà tutto da raccontare. Con i racconti invece oggi voi siete stati bravissimi, a proposito dei suicidi sportivi, vi ringrazio. Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadoni in regia, domani alle 14 tutti convocati, non da me ma dal signor Giovanni Capuano. Ciao. Mirko, buongiorno. Ciao Carlo, ciao. Buongiorno. Dimmi. Un saluto a Bardo, bella Bardo. Bella Bardo. Senti, io il suicidio più che mi è rimasto impresso, ogni tanto ancora adesso penso alla faccia di Matteo, 1999, finale Manchester United Bayern Monaco al Bernabeu. Novantesimo, arbitro da 3 minuti di recupero, e calcio d'angolo e gol di Sheringham, se non erro. Sì. E un minuto e mezzo dopo, a 30 secondi dalla fine, il secondo gol di Solskjaer. Quello secondo me è stato il top.